Italia in controluce. È il 14 di luglio, una buona mattina da Daniele Biacchessi. Prosegue il viaggio nelle periferie di Roma, in quelle narrate da Pierpaolo Pasolini. Reportage di Sabrina Pisu, questa volta sul quartiere di San Basilio. A me mi piacerebbe che qui sotto ci sarebbe un po' di calma e non ci sarebbe sempre spaccio della droga, sempre la pulizia. Sabato è fatta così, però ci stanno certe cose che sono belle, sono bellissime, perché io gioco con amici via Samuel e Ivan e mi diverto un sacco e mi piacerebbe una bella giostra gigante. David ha 9 anni, la sua casa si trova a destra, la indica con la mano, dopo via Gigliotti, la strada della droga. Qui gioca tutti i pomeriggi con i suoi amici. I sogni dei ragazzi in fondo si assomigliano, con una differenza: ai bambini di San Basilio serve più immaginazione per superare il degrado e la solitudine dell'emarginazione, come racconta Carla Corciulo, che insegna da 20 anni nella scuola Gandhi, la elementare storica del quartiere. La scuola ha 4 plessi, 3 nel quartiere di San Basilio e 1 nel quartiere di Torraccia, che è un quartiere abbastanza nuovo, insomma. Ci siamo molto battuti come scuola per avere il plesso di Torraccia, perché pensavamo che potesse essere utile al quartiere di San Basilio, ai bambini e ai genitori, fare un po' una specie di ponte tra il quartiere storico come San Basilio, ex Borgata, e un nuovo quartiere come Torraccia. Purtroppo Torraccia non accetta i bambini di San Basilio, non vogliono che i loro figli si confondano con i ragazzi di San Basilio. San Basilio prima era un quartiere, una borgata che stava a sé stante, lontana dal centro, lo è ancora, però intorno a sé c'era la campagna. Poi piano piano le hanno costruito intorno tutti questi quartieri nuovi. Quartieri nuovi con cui però non si è riusciti a trovare una comunicazione, e questo credo che sia una grave sconfitta più che altro per la politica. L'abbandono scolastico è più diffuso in un luogo di deprivazione culturale e ambientale come questo. Il dramma di questa dispersione scolastica è maggiormente alto in un quartiere come questo. Io faccio lo sforzo pure di diplomarmi, io bambino di San Basilio, però poi quando mi sono diplomato, se non riesco a trovare uno straccio di lavoro, vale per molti giovani in Italia, ma se sei di San Basilio è ancora più grave. Facilmente si finisce per diventare la sentinella degli spacciatori. Lo sforzo degli insegnanti di questo territorio, che io giudico insegnanti di frontiera, a volte ti fa sentire proprio che è uno sforzo inutile. Ti senti impotente. Io qualche ragazzo l'ho recuperato, molti li abbiamo persi. E allora l'impotenza sta in questo, nella rabbia. E tu lavori fino alle 4:30? Dopo le 4:30 c'è un quartiere come questo che li aspetta. Camminando si vedono giovani che lavorano come vedette per 50 euro al giorno. Via Gigliotti è un vero labirinto dello spaccio. Fino a qualche mese fa una lunga fila di auto, acquirenti che arrivavano fin da Frosinone e Latina e che trovavano una catena di montaggio ben collaudata, come spiega Adriano Lauro, dirigente del commissariato di San Basilio. E gli spacciatori si organizzavano, ognuno con un proprio ruolo. Le vedette che consentivano appunto di allarmare con telefonini, con grida, con urla, con fischietti, addirittura la presenza, l'avvistamento delle forze di polizia. Dopodiché per strada c'è chi contatta materialmente l'acquirente, chiedeva il tipo di sostanza che si voleva, cocaina, hashish, marijuana. Dopodiché arrivava il vero e proprio pusher che curava la vendita. Adesso ovviamente con la nostra presenza si è un po' riorganizzato, le vedette ci stanno comunque, perché però siccome ci vedono con una certa frequenza, insomma l'attività si è dovuta riorganizzare e avviene molto meno alla luce del sole rispetto a prima. Ecco, cercano di trovare dei sistemi per sfuggirci e noi a nostra volta cerchiamo dei sistemi per individuarli. Il destino del territorio sembra segnato dalla nascita, quando negli anni 30 i baraccati di via dei Fori Imperiali vengono portati qui, abitazioni di fango, miseria, poi negli anni 80 l'occupazione delle nuove case costruite, una storia che conosce bene Nunzia Di Candio, insegnante della scuola media Federico Fellini di San Basilio, che racconta l'impegno sociale delle associazioni con e per i ragazzi a partire dal doposcuola. Interventi sul sostegno scolastico, perché alcuni ragazzi non riescono a finire la terza media. Si sta cercando di aggregare soprattutto i giovani per costruire un percorso che gli sia più agevole. L'importante è far capire a questi ragazzi, soprattutto a questi ragazzi che vivono nei quartieri periferici, che la cultura è lo strumento per riuscire a gestire il loro futuro, perché rischiano l'emarginazione. immaginazione. E questo sta avvenendo nei quartieri periferici, tra cui San Basilio. Mediazione sociale, Associazione Romana Casa e Ambiente, Unione Italiana Sport per Tutti, la casa dei ragazzi e delle ragazze sono solo alcune delle realtà impegnate per cambiare il territorio, coinvolgendo i cittadini, dando loro una voce attraverso il giornale del quartiere, dove si costruisce un'identità nuova, grazie anche ad un laboratorio di calcio. Abbiamo ristrutturato con le risorse di una festa un campetto abbandonato di calcio, dove vengono fatti laboratori di sport per i ragazzi e per i bambini, un laboratorio di pittura per i ragazzini, scuole elementari, scuola media, quindi una fascia d'età bassa proprio per cercare di lavorare con i più giovani. Corso di computer, partirà anche un laboratorio di scrittura creativa con un insegnante della scuola elementare, e stiamo cercando di coinvolgere tutte le realtà che esistono all'interno del quartiere. Tutte le risorse sono necessarie per riuscire a coinvolgere, a far vivere il quartiere come un posto da vivere e non da subire. Le abitazioni sono cubi di cemento, da via Gigliotti i primi negozi distano quasi un chilometro, l'autobus 344 per andare a Roma, come si dice qui, così vicina ma così lontana, non c'è un cinema, e così l'associazione Brutti, Sporchi e Cattivi ha portato i film all'aperto d'estate, dice Pino Palermo. Noi come associazione avevamo fatto quest'estate cinema all'aperto, ci stiamo muovendo per poter fare anche del teatro insieme a altre associazioni, cerchiamo pure noi insomma di dare una mano in questa parte del quartiere dove c'è solo degrado. Noi cerchiamo di migliorare questa realtà con le piccole risorse che riusciamo a portare noi. Piccole risorse per iniziative grandi, come quella del regista e attore Ferdinando Vasselli, che ha condotto un anno di laboratori teatrali con i ragazzi del quartiere, storie ed emozioni confluite nel monologo Il cielo sopra San Basilio. Il quartiere che loro sognano, credo che è un quartiere con più verde, più giardini, più campi da calcio, più possibilità di disegnare. Gli manca un cinema, manca un teatro, mancano questi posti qui. E se ce li avessero, io credo che potrebbero fare un sacco di roba. Il cielo sopra San Basilio oggi è azzurro, come gli occhi di Samuel, che gioca con David e ha 8 anni. Mi piacerebbe avere un campo per giocare a pallone e a basket. E poi vorrei avere un cavallo per giocarci, per salirci sopra. Un parco pure, e che mia madre vuole possa andare a giocare con amici miei. Di fronte a Samuel, David, Ivan, lasciata alle spalle via Gigliotti, un nuovo campo di calcio. In quel rettangolo di terra in piazza Bozzi c'è l'amicizia che li unisce e fa sognare, l'ostinazione di chi con un pallone si batte, resiste al destino per un futuro diverso. Era Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 con nuove storie, nuovi servizi, nuovi approfondimenti e nuovi reportage.